Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ciao caro Oscar, oggi a Roma. Eccoci qua, sì, sono romano, sono venuto a certificare i disastri della città. Li hai trovati questi 13,6 miliardi, li hai trovati o no? Pare che il governo vuole fare questo regalino al nuovo sindaco, chiunque sia, siccome non è probabile che sia del PD, allora al nuovo sindaco ridanno nel bilancio ordinario altri 13,6 miliardi che erano in gestione commissariale. Direi che Palazzo Chigi fa degli scherzetti, niente male. Niente male. Che poi hai letto oggi sul Messaggero, c'è anche una lite perché il vecchio commissario dice: ma ci sono 6 miliardi, esatto, lì, cercateli. Perché a fare questa relazione è Silvia Scozzese, funzionaria del Tesoro, che Marino fece dimettere da assessore. Lei è diventata commissaria e adesso rifà questo regalino. Io Silvia Scozzese la stimo molto, una persona che conosco personalmente, quindi tendenzialmente mi fido. Certo, se Palazzo Chigi dice al prossimo sindaco di Roma: becca te ste 13,6 miliardi, è come dire, fallo, beh, tu il sindaco. Esatto. Fallo vai, tu. Vai. Avanti. Vai tu, che a me scappa da ride, c'è come posto, dicono a Roma. C'è posto, ma i santi, Oscar, allora, oggi sei a Roma. Oggi è un santo che ci spiega, nulla viene a caso, le nomine alla RAI. Perché oggi pensa è San Corradino con Falonieri. Si chiama così, non è che me lo invento. Corradino con Falonieri, peraltro terziario francescano, di nobilissima famiglia, molto ricco, che lascia tutto nel 1200 e va ad andare a fare l'eremita, in Sicilia. Il fidele è un francescano. Essendo fedele, fidel, però... c'è un San Confalonieri, ragazzi, e guarda caso, ieri c'erano le conferenze stampa con le nuove nomine, con ex dirigente di Telefinco e Magnolia a Rai 2. Però, senti, i santi dall'alto, come anche i santi non si ingeriscono, come il Papa. Ecco, come il Papa. Come il Papa. Come il Papa. Però anche San Mansueto, vescovo di Milano, quindi siamo buoni. E vorrei dirti che oggi c'è anche un santo che si chiama Quod Vult Deus, ex vescovo di Cartagine, oggi, e c'è anche un santo cinese, una catechista cinese che ci ha rimesso la testa perché era cristiana, poveretta, che si chiama San Yi Zhenmei, quindi... La Chiesa ha un santo per tutti, per così dire. Esatto, anche cinese. Oh, tra l'altro la Chiesa, lo so, poi dopo ti criticano soprattutto, caro Oscar, ma ieri il Papa ha parlato, sai che quando va in aereo in genere incontra i giornalisti, no? Sì. Da dove partiamo? Dall'America o dall'Italia? No, dall'America, perché allora il Papa ha detto: non mi esprimo sul voto, però... Trump. Però Trump non è un cristiano, perché alza muri. Non è un cristiano. È un papa, te lo aspetti. Certo, Trump ha reagito durissimamente, però lì è campagna elettorale. Ma dai, però... è vergognoso. Insomma, non se ne sono mandate a dire, ecco come dire. No, non se ne sono mandate a dire. Però diciamo, un papa che dice: non mi ingerisco, Trump non è cristiano, è un bel modo per non ingerirsi. Senti qui le parole del papa. Poi, quello che mi diceva, cosa consiglierebbe? Votare o non votare, non mi mischio, soltanto dico: questo uomo non è cristiano. E dice: non mi mischio. Però una scomunica. Eretico! No. Non mi mischio, è un eretico. No, ma sai come? Siccome poi il 17 febbraio era l'anniversario, noi non l'abbiamo commemorato, di Giordano Bruno bruciato. E sai come? Ogni tanto la Chiesa Cattolica ha bisogno di dare dell'eretico a qualcuno. Adesso lo dà a Trump. Però io. Chiamiamo le persone su questo. 800. Aspetta, però c'è un risvolto italiano. Guarda che Trump più o meno dice le cose che dice Salvini. Quindi è meglio che Matteo Salvini si faccia due conticini, perché la prossima volta riguarda lui la faccenda. Effettivamente. Comunque 800 24 00 24, parliamo di, insomma, rapporto, lo sapete, chiesa, politica, siamo chiamate soprattutto a convincerci, cattolici, a dire, lo dico così, Oscar, perché sennò poi dopo ci accusano di essere anticlericali. No, ma tu dai la colpa a me, io ho fatto poi i salesiani, quindi non ho niente contro la chiesa. È per quello che sei anticlericale? No, no, non so, io non sono anticlericale. Non io, sono anticlericale. Io un pochino, quando vedo tu il fondo sì, clero in squilibrio di 2,2 miliardi, 1 euro di contributo, 3 euro di cui 2 escono dalle... Questa ce l'hai detta ieri. Però ma la ridico perché si parla sempre di pensioni, ma i giornali italiani questa roba non la citano mai. Il fondo clero, che è uno dei fondi speciali della gestione carico INPS, è in squilibrio per 2,2 miliardi e questo significa che loro versano un euro di contributo e ogni anno ci sono 3 euro invece che escono negli assegni al fondo clero. Gli altri 2 euro li metti tu, li metto io, li mettiamo tutti noi. Allora, per una volta ricordiamolo che noi siamo così cristiani e così generosi da dare i 2/3 di ciò che loro hanno ogni mese nel loro assegno. Però c'è un po' di accanimento. Per esempio, devo riferire, lo posso fare, penso di non fare violazione della privacy, una straordinaria chiamata, prima ti dicevo, che ho ricevuto da Monsignor Mani, il vescovo di Cagliari, che ha voluto, cioè tenuto a smentire, perché ieri ho detto, scriveva così Il Giorno, che lui prende una pensione da ex cappellano militare come Bagnasco, e lui mi ha chiamato, mi ha detto non è assolutamente così, perché io sono stato solo 8 anni, credo 7, generale, quindi non ho maturato la pensione, così neanche Bagnasco, sono notizie false, e mi ha dato anche la penitenza. Mi ha detto, la penitenza, scherzando, mi ha detto mi faccia avere un anno di abbonamento gratis al Sole su tablet. Grazie, scherzo. Ah no, aspetta. Allora è un cristiano fenomenale. La penitenza se l'ha inflitta lui. No, no, cosa dici? Dico, per un vescovo il Sole 24 ore. Ma certo. Ma no, te lo spiego, perché è l'unico angolo rosa della sua giornata in questo modo. Ecco. Questo. Vabbè, invece il Papa ha parlato anche. Beh, ha parlato anche di tante altre cose. Sì, l'aborto, però ha parlato anche dell'Italia. Dell'Italia. Cioè, a proposito di non ingerenza. Beh, ha detto, sulle unioni civili i cattolici votino come... Io non mi mischio nella politica italiana. Sì, e poi ha aggiunto, ho detto ai vescovi, pensateci voi. Cioè, perdona. Eccolo lì. Ma come eccolo lì? Dice, io non mi mischio della politica italiana. La prima volta che ho visto i vescovi, ho detto, ci dovete pensare voi col governo. Tatan! Unioni civili esplose. Con questo tono l'avrà detto. Tatan! Ci pensate voi. Ci pensate voi. Cioè, ha detto a Bagnasco, colpisci a fonda. Cioè, noi ieri, dietro la dichiarazione, osannata oggi dai giornali, il Papa dice non mi mischio, Francesco sì che è un punto di riferimento, l'aggiuntina che dice ho detto ai vescovi fateli neri, ecco, questo è quello che ha aggiunto, certo. E infatti guarda, ci chiama Giuseppe da Varese, per esempio, su questo tema, credo, perché poi potete chiamare su tutto, come sempre siamo il porto franco vostro, caro Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Grazie per la possibilità di dire qualcosa. Niente, io sono sorpreso dai titoli di giornali e anche da voi che commentate le parole del Papa, perché secondo me il Papa non ha fatto attaccato Trump, ha detto una persona che alza muri e non fa ponti non è cristiana, tradotto non Trump, forse anche lui non lo conosco. Beh, non la la domanda però era Donald Trump vuole fare un muro tra gli Stati Uniti e il Messico, e lui ha detto uno che vuol fare muri non è cristiano. A chi si riferiva? Mi scusi. Sì, però gli ungheresi, gli ma no, ma certo che il principio vale per tutti. Ma io per primo l'ho detto, sono d'accordo con lei, alla domanda lui rispondeva a Trump. Lui rispondeva su Trump, però. Però se uno prende le parole del Papa per quello che sono, deve estenderle a chiunque segue. Anche Orban. Salvini, Orban e così via. Però Giuseppe, che vuole... Dica, continui. No, invece si usano queste cose qua... senza cogliere l'essenza reale, che è il tentativo del Papa di riportare ognuno di noi, con tutti i limiti del caso, alla verità o al tentativo di guardare la realtà per quella che è. Dopodiché, questo è un uso politico che viene magari contestato ad altri. Però Giuseppe, io capisco, cioè, parla per principi generali il Papa, ma la domanda era chiara, il Trump vuole costruire muri, cosa pensa di secondo lei è un cattolico americano può votarlo? E il Papa risponde, grazie a Dio Trump ha detto che sono un politico. Riguardo al voto, lo lascio al giudizio della gente, però chi vuole fare muri non è cristiano. Insomma, no, Oscar, più chiaro di così. Cioè, più chiaro di così. Rispondeva a Trump. Rispondeva a Trump. E infatti Trump si è arrabbiato. Però... Mamma mia, Trump, posso dire, questo giudizio politico, molto più che sulle parole del Papa. Secondo me Trump ha sbagliato la misura della reazione. Ma sull'ISIS, cioè, perché ha detto, cioè, se ci fosse... Ammesso che Trump sia capace di avere misura, no, quando esatto. parla. Cioè, Trump ha detto, quando e se ci sarà un attentato in Vaticano dell'ISIS, ecco, il Papa pregherà che a quel punto ci sia io la Casa Bianca. Allora, dai, a me, su, come personaggio pubblico, non come politico alla guida degli Stati Uniti, Trump mi fa spesso sorridere e riflettere. Penso però che quelle parole non siano adeguate per un candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Perché immagini un capo dello Stato del paese più potente del mondo che replica una critica dicendo: oh, guarda, adesso ti farò un attentato. Cioè, insomma, fa pensare. Che poi vorrebbe dire un attentato a Roma. Forse capito? Trump non ha capito che, insomma, un attentato in Vaticano vuol dire un attentato in pieno centro a Roma. Sì, e poi questa idea muscolare, a quel punto pregherà che ci sia io alla Casa Bianca, che per fare cosa? Cioè, non ho capito, botto la bomba atomica. No, lo so, io sono per una politica che induca chi l'ascolta anche ad apprezzare talvolta i lati duri, si possono avere opinioni chiarissime, io stesso sono un radicale su molte questioni. Però il tono, quanto più si è radicali, deve dare l'idea a chi ascolta di essere persone misurate, cioè capaci di riflettere fino all'ultimo secondo. Trump spesso parla dicendo: io rifletto un anno dopo che ho parlato. Ecco. Questo un po' sì. Però sulla questione dell'ingerenza italiana, tu dici che, insomma, in realtà il sottotesto è più importante, quello dei vescovi. No, non è il sottotesto, è lo stesso testo. Io dico, io siccome rispetto il Papa, prendo in toto tutte le parole che dice. Dice all'inizio: io non mi ingerisco alla politica italiana. Benissimo, benissimo. Poi, se mi aggiungi immediatamente: ho detto ai vescovi la prima volta che l'ho visto, pensateci voi, dico: bene, non ci digerisci tu perché hai dato un mandato. Perfetto. Anche il capo di un esercito che comanda la strategia mica va in prima linea in battaglia, però chi va a morire in battaglia gliel'ha ordinato lui. Tra l'altro, Oscar, noi ricordiamo che avremo ospite Alfio Marchini tra poco, dopo la pubblicità. Alfio Marchini, come sai, è protagonista di questa, come lo dobbiamo chiamare, di una giravolta di Salvini che dice: Bertolaso non è più il mio candidato? Comunque sia, di un pezzo dell'esplosione del centrodestra romano, che oramai è arrivato non so a quale candidato di seguito, Rita Dalla Chiesa, poi Bertolaso, eccetera eccetera, e perde pezzi ogni giorno, cioè è veramente un disfacimento. Non voglio suonare mancanze rispetto ai nostri ascoltatori di destra, ma non dipende da loro, però certo i partiti, tra Fratelli Italia, la Lega, Forza Italia, è una specie di sarabanda. Quindi sì, Salvini adesso ha detto di nuovo marcia indietro, però ha parlato di primarie. Bisogna vedere se Salvini nelle primarie ha detto devono decidere i cittadini, questo ha detto Salvini, e sembra tornare sulle posizioni della Meloni che un tempo chiedeva le primarie insieme sì, a Salvini. Però le chiedeva dappertutto, anche dove sono i candidati della Lega, la Meloni. Sì, vabbè, ma questo ormai è superato dai fatti, per così dire. Cioè, sentiremo da Marchini a questo punto se diventerà il candidato centrodestra oppure no. Certo, sta di fatto che Marchini a oggi, nei sondaggi, oggi il Messaggero dice che Bertolaso non ha nessuna chance di arrivare al ballottaggio a oggi. Sì. Marchini rischia di essere lui che va al ballottaggio con i 5 Stelle secondo i sondaggi attuali. Anzi, è più o meno scontato che sia così. Effettivamente sì. Tra l'altro, ne parleremo tra poco ovviamente di politica. Sai che mi ha colpito questa cosa che ho letto in rassegna stampa sul Giorno e riguarda la sanità lombarda. Attento a quello che ti ha detto il vescovo di Cagliari. No, va bene. C'è un ex primario del Niguarda di Milano che racconta e dice: io per anni ho denunciato in procura tutti gli orrori di falsi malati, cioè nel senso persone sanissime che venivano, alle quali veniva detto bisogna trapanare, otturare, sai che tu si legava tutto ai denti, no? La questione della sanità. Ho denunciato per anni alla procura, ai NAS, ai PM, eccetera. Sono andato in pensione, niente. Non è successo rimbalzava niente. Su un muro di gomma. Rimbalzava su un muro di gomma. Cioè, ma siamo sempre lì. Ci sono delle persone positive anche in queste. Ci sono, ci sono quasi terribile. Dovunque. Il problema è che molto spesso non trovano le orecchie istituzionali pronte ad ascoltarle. Ma com'è possibile? Voglio dire che adesso c'è un'inchiesta, ci sono degli arresti e c'è uno che dice: per anni ho detto le stesse cose, ho denunciato tutto e nessuno mi ha ascoltato. Che cosa è cambiato adesso? Cioè, non lo so, prima no? Però quello di cui io posso dirti che come giornalista dai tempi di Tangentopoli a oggi, in molti grandi processi che sono poi nati su diversi filoni di Tangentopoli, è capitato di imbattersi in cittadini, funzionari, eccetera, eccetera, che sostenevano, prove alla mano, ti mandavano i pezzi di carta, che in precedenza avevano svolto la loro funzione e non erano stati accolti. C'è un momento nel quale invece poi le indagini trovano un pubblico ministero che vede lì la fattispecie di un'ipotesi di reato e la cosa si attiva. A volte, guarda, è più il caso che la necessità, non ti credere, è così. È così. Purtroppo, dici perché così. Questo naturalmente delude, fa passare la voglia a molta gente per bene, anche nella pubblica amministrazione, che dice ma io qua parlo, tento di denunciare e non succede niente. Sai che Oscar ci hanno chiamato anche un paio a fare il basta, dovremmo fare un contest. Beh, abbiamo questa ascoltatrice che ma era... No, c'è un altro in segreteria, adesso comincia... Vogliamo aprirlo un giorno, ci pensiamo bene, un bel contest al miglior basta... Ma tu ce lo puoi rifare, no? No, beh, adesso no, però, adesso se no diventa... No, ma non bisogna mai inflazionare. No, ma non so. Io penso che al mio funerale l'annuncio verrà dato la mia voce che dice basta. E alla fine tutti diranno, finalmente, questo è quello che succederà. Io mi immagino una cosa così, insomma. Poveri cinque gatti al seguito e vabbè. Lolo. Ragù Artù. Tu ogni volta lo ripeti. Il resto si chiamano così e io sono contento. Ma è bello, così. Ma lo dico per onorarli, non è che li ripeto perché. Tre cosette al volo. I britannici hanno fatto vedere come si tratta con l'Europa, duramente, non frignando senza ottenere niente come fa l'Italia. Perdona, lo dico proprio brutale come la penso, per così dire, perché poi è così. Secondo, la Commissione Europea ogni tanto una giusta la fa, dice a Vienna che sulle quote sbaglia tutto, dovevano svegliarsi prima. Naturalmente Vienna dice chi se ne frega, come finisci la tua trasmissione, che è un altro slogan che si attaglia a molte cose, il che significa che l'Europa è morta, perché capisci che se dice la Commissione non devi mettere le cose al Brennero, chi se ne frega, le metto lo stesso. Riflettiamo su questa cosa. E poi noi non abbiamo detto una parola, ma a me questa cosa che va avanti, guarda Cazzullo sul Corriere, ho finito, Renzi e Monti che diventano ma dai, è fantastico, la politica italiana riserva delle sorprese. Oggi Monti fa l'intervista al Foglio, dice quindi io sarei il complottaro che vuole fare... Ah, ho capito, interessante. E inizia così un'analisi dotta da europeista sfegatato, dice lui. Vabbè, insomma, il complotto che torna. Comunque io lo lancio, se volete, al 349-238-6666, il contest, siccome è WhatsApp e quindi l'audio è perfetto, mandateci gli audio con il vostro basta alla Oscar Giannino. Io povero me, ho imitato povero male, dai, però andiamo in pubblicità che poi c'è Alfio Marchini. Sì. Basta. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Eccoci caro Oscar, sono le 8:38 minuti. Eccoci qua. Sai che ne stanno arrivando già tantissimi di audio. In fine di trasmissione te li faccio sentire tre. Di basta. Sono arrivati tantissimi. Ma si applica la crescita italiana, visto che l'Ocse l'ha già abbassata all'1% rispetto, cioè la tagliata di un terzo rispetto alle aspettative del governo. I nostri ascoltatori l'hanno capito e dicono basta crescere. Beh, esatto. Siamo cresciuti troppo. Comunque allora, mandateci al 349-238-6666. Con noi, caro Oscar, chi? Alfio Marchini. Ecco, grazie di essere con noi. Buongiorno Alfio Marchini. Buongiorno. Allora, io posso fare una domanda iniziale, perché veramente ho una curiosità, nel senso che poi parliamo di tutto, lei a nome di chi parla, di scandali a destra, non a destra, 13 miliardi, però io una cosa non ho capito. Lei giorni fa l'ho sentita che diceva: a Roma è nata una grande manovra evasiva. Allora, siccome non credo che stia parlando di evasione fiscale, ma la politica evasiva che è in atto a Roma, ce la spiega? Perché io non l'ho capito, cioè chi è che sta evadendo dalle responsabilità, forse? Dica un po'. No, ma io credo molto semplice, guardi, non è a Roma, in Italia, noi siamo ormai da decenni, assistiamo a una politica evasiva, a una politica che evade la realtà, che ci fa una narrazione che è assolutamente sganciata da qualsiasi tipo di realtà. Ci raccontano, noi saremo la locomotiva dell'Europa, che saremo più forti della Germania, poi ci scorpiamo che dobbiamo fare una manovra da 20 miliardi di euro per mettere a posto il nostro bilancio. Io credo che sia giunto il tempo che la politica riflessiva, cioè che rifletta su tutte le cose. Il processo a Roma è un po' l'immagine, la metafora. Vede, il centro-sinistra già 2 anni fa tentò di nascondere il fallimento assoluto cortei, partiti che avevano governato per decenni e decenni e decenni, con una mossa camaleontica. Preso, cioè Marino, un signore, un medico, sì, e gli dissero: tu fai la foglia di fico della società civile. Il risultato, dopo sei mesi, entrarono in crisi e adesso rivotiamo. Il centrodestra sta facendo la stessa identica operazione. Con chi? Ha preso un signore, con Bertolaso, che stava in Africa fino a ieri, e hanno cercato di, come dire, di fargli fare da paravento al fallimento di chi ha cogestito con il consociativismo questa città per decenni e decenni. Mm. Cioè, se Roma è in questo stato, non è colpa sua, Giannino, o mio, di chi che sia, ma di chi ha gestito questa città per decenni. E chi sono stati? I partiti che nel consociativismo di giorno sono finta di litigare e di notte si spartivano tutto. E quindi mettere un povero Cristo, ieri Marino, oggi Bertolaso, vuol dire condannarlo a andare contro un muro 32 secondi dopo inizia la prima riunione di consiglio comunale. Allora io penso sia giunto il tempo che la politica dica la verità, non ci può più dire racconti che sono fuori dalla realtà. Guardi, Sanremo è stato emblematico. Di chi? A parte chi fa, diciamo, copie e personaggi importanti, ma i comici non fanno più ridere. Ci sarà un motivo o no? Ma perché è tutta una comica. Cioè, noi abbiamo una tale narrazione della realtà sganciata da quelle che sono le cose oggettive, che la gente è abituata a sentire sempre una più grossa. Cioè, dice, la comicità è quello che sentiamo tutti i giorni. Bravissimo. Allora, non è un caso. Qual è stata la cosa di maggior successo che c'è stato a Sanremo? La esibizione di Ezio Boss. Quanti di noi hanno visto quell'esibizione, lo dico senza vergogna, all'inizio addirittura pensavano che fosse uno scherzo. Chi non lo conosceva, io esempio, ero tra quelli. Poi mano a mano abbiamo visto che era una cosa vera. E poi siamo stati tirati dentro una cosa meravigliosa. Quello è stato proprio il passaggio plastico da chi non è più abituato a vedere la verità. Ah, ecco, lei dice all'inizio. Ah, e non si capisce neanche la verità. Non avevo capito. Marchini, parliamo allora. C'è il caso del giorno, perché sa che Salvini ha preso un po' le distanze da Bertolaso. Sì. E si dice, bene, lei dice, e si dice, si di Kunt, che appoggerà Marchini, Salvini. Allora ci deve dire che cosa c'è di vero in questo. Ma guarda, adesso io tutto posso e devo fare tranne che mettermi nelle beghe interno di altri partiti, quindi non è il mio caso. Povero Salvini forse avrà semplicemente, non c'è nessun patto segreto, avrà semplicemente preso atto che prima gli hanno detto che lui odia Roma, poi gli hanno detto che i Rom sono vessati, poi hanno detto che avrebbero votato Giachetti, che è l'uomo di Renzi, che è il maggiore avversario di Salvini. Oggettivamente posso no, perché in effetti una certa, Bertolaso, spieghiamo a chi ci ascolta, queste dichiarazioni le ha fatte Bertolaso. Ecco, è bravo, esatto. Cioè, diciamo, se uno dice cosa faccio per farmi dire di no, ecco, faccio un elenco di tutte male cose e le infilo una sull'altra. Quindi per, anche qua non c'è di andare a cercare sempre il sortilegio, la verità nascosta. La verità è un fatto oggettivo. Ma io lei, vengo da lei e gli racconto che lei sì, insomma, è figlio di... Prego. Ma un appoggio di Salvini le farebbe piacere a questo punto, però. Guardi, io innanzitutto sono il candidato di quei 120.000 romani che ci hanno votato nelle ultime elezioni e in questi due anni non abbiamo onorato la loro fiducia. E poi, mi consenta, io mi cambio adesso il sindaco di tutti quei romani che non si fidano più di quei partiti che negli ultimi decenni hanno panchettato sulla pelle di Roma. Punto. Poi, quando e quali e da dove vengono questi romani rispetto all'appartenenza che hanno avuto fino a ieri è un problema che a me sinceramente non mi interessa. A me interessa, ad esempio, parlare di sicurezza, a me interessa, ad esempio, parlare di come risolvere i vari problemi. Le dirò, noi presenteremo un disegno di legge, abbiamo una fila di senatori e parlamentari che vogliono farlo, sulla sicurezza. Perché? Perché io credo profondamente che sia giunto il tempo di affrontare alcune delle emergenze ancora presenti non solamente a Roma, ma in tutte le città, quali prostituzione, accattonaggio, rovistaggio dei rifiuti, commercio abusivo, contrasto alla contraffazione, inserire infine norme in materia di videosorveglianza e di sicurezza partecipata. Beh, esempio, ecco, il reato è una cosa che le do, certo, cosa che le do. Il reato d'accattonaggio, infatti... All'articolo 1 noi metteremo una cosa nuova, che ha un concetto di sicurezza partecipata, cioè si disciplina in particolare la partecipazione di delegazione rappresentanti dei cittadini ad alcune delle sedute del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Allora, questa è l'impostazione, queste sono le cose che voglio discutere, sinceramente. Del resto non mi interessa, non mi diverte, le lascio volentieri al teatrino della politica. Quindi lei dice coinvolgiamo i cittadini dal basso in una gestione di sicurezza condivisa. Orizzontale, sussidiarietà orizzontale, articolo 118, ultimo comma della nostra Costituzione, piuttosto che cambiarla, che la si applicasse, che vuol dire delegare agli altri. Vede, oggi è sui giornali la insostenibilità dei conti di Roma. Roma in questo stato, infatti, perché si pensava di dare tutto a tutti con risorse illimitate che sono stati debiti caricati sulle prossime generazioni. Questo non è più possibile. Però lei ha capito che il governo si riserva di fare una sorpresina. Chiunque vinca a Roma, siccome non sono del PD, gli dice: mo ti becchi. Gli avevo regalato ad altri sindaci una gestione commissariale separata dal bilancio. Adesso chi arriva si ribecca in bilancio 13,6 miliardi di debiti. Auguri a fare il sindaco. E chi farà una furbata del genere si troverà sotto assedio dai romani, che non sono fessi. Una cosa è mettere a posto la spesa corrente, che sono entrate meno uscite, e questo è giusto farlo, perché a Roma ci sono moltissimi sprechi e non si possono alimentare questi sprechi, e poi alla fine vanno a danno di chi paga le tasse, come i romani. E su questo, mi consenta, noi abbiamo due elementi. Uno, la grande rigidità ormai del bilancio, perché, come lei sa, avendo tolto la leva fiscale ai comuni, di fatto viene liquidata la quota di IMU tassari direttamente da, diciamo, dal governo, quindi tu non hai leve fiscali. Quindi anche perché tanto la gestione di tesoreria sta al MEF, non è che bravissimo, ce l'avete qui. Quindi hai una rigidità di bilancio per cui hai dei costi, che a Roma sono circa 2 miliardi di stipendi, e sul resto devi fare dei tagli. Quindi è fondamentale fare efficienza. Allora, siccome io una cosa so fare nella vita, trasformare un problema in un'opportunità, noi a Roma abbiamo una gigantesca opportunità. Primo, parola d'ordine, tecnologia. Ma lei lo sa che a Roma oggi sono ancora i camminatori, che sono dei dipendenti dell'ATAC, che portano fisicamente a mano le buste da una parte all'altra, ma neanche a tempo di Giulio Cesare c'è una roba del genere. Due, oggi se lei deve pagare una multa deve andare non so dove a farlo. Allora la tecnologia sicuramente agevola, facilita, esemplifica e risparmia moltissime delle cose che sono da fare. Il fatto che oggi sono grandi inefficienze ci consente di fare, quindi sì, intervenire sulla spesa corrente, liberare risorse, abbassare le tasse, ma assolutamente inimmaginabile fare pagare a oggi sulla generazione attuale gli errori e i banchetti di chi ha governato. Cioè sul groppone non vuole questi soldi. Le Olimpiadi invece le vorrebbe, Marchini? Guardi, secondo me potevano impostarla meglio le Olimpiadi, perché questa scelta è un po' verticistica di decidere anche urbanisticamente chi deve fare che cosa in assenza. Io sono, purtroppo sono uno che ama la democrazia, così come ero felice e ho fatto di tutto per cacciare Marino, ero altrettanto convinto che Marino dovesse passare per l'aula. Secondo me la democrazia esiste, noi stiamo assistendo a uno snervamento delle istituzioni democratiche di questo paese, per cui viene tutto quanto teleguidato, e a me questo sinceramente non piace per nulla. Possiamo dirlo, cioè, o lei considera questo, che sia una critica alla patria dire che ha preso a programma, a presentazione del dossier praticamente consegnato solo dopo tutti i particolari che riguardano l'impatto su Roma delle Olimpiadi, senza che una istituzione pubblica né nazionale né di espressione dei romani ne abbia saputo alcunché prima? A me sembra una cosa che non sta in cielo né in terra. Piace. Però alla fine, se verranno, al di là del metro, le piacerebbe averlo. Scusi, è come se lei mi dice vuole andare fuori a pranzo con una bella donna intelligente, simpatica, che la fa anche divertire, è ovvio, cioè il tema qui è un altro. Prima bisogna fare delle Olimpiadi e essere sicuri che rimanga per la città, e siccome le esperienze in pregresso non sono straordinarie, vorrei essere sicuro di questo. Secondo, chi paga chi? Di questo, e per essere sicuro di questo, al di là dei rapporti di stima, di amicizia che ho con chiunque, le buone intenzioni non bastano, voglio delle garanzie precise e puntuali. Sicuramente il Buon Mattino non fa immaginare, perché forse avrebbe fatto. C'è tempo per recuperare, sono convinto e sono sicuro che ci sarà il tempo e il modo per confrontarci e per trovare una coerenza e una condivisione sugli obiettivi che, se servono per la città, portare lavoro, benessere, occupazione, ma per amor del cielo, siamo tutti felici. Ma sai che molti cittadini dicono: ma rimanga tronca per sempre, no? Colui che vuole anche rivedere. Guardi, lei ci ricorderà che esattamente 2 anni fa io invocai il commissario per 2 anni, era dicembre del 2013, tutti dissero che era un assoluto pazzo, Detto questo, ecco, io preferisco il profilo di un tronca che in silenzio cerca di mettere a posto le cose, però veramente la resa della politica. Io rivendico, io le do, parlavamo prima della politica evasiva, Allora, tra la politica che evade la realtà, che ti racconta un film che non esiste, e quella che si autoflagella, c'è una che guarda la realtà e non ha paura di vincere, non ha paura di assumersi le proprie responsabilità. E io credo che sia il tempo di dire, ragazzi, la situazione è complicata, ma politicamente ci possiamo mettere insieme per ragionare e per avere una visione. Era questo l'appello che avevo fatto inizialmente quando parlavo di primare o meno. Vede, se si vuole creare una cosa ampia, non può che essere una condivisione di identità diverse e realtà diverse. Però io oggi le posso dire, e non sono un velletario, che dopo aver studiato per 3 anni nel dettaglio Roma, i problemi che ci sono, è una sfida che si può vincere. Oggi lo scenario complessivo è tra paesi, continenti, e l'Italia, ahimè, non sarà mai un paese continente, quindi è tagliato fuori, saremo per forza marginali, e grandi aree metropolitane. Ecco, io credo che in questo scenario noi possiamo con Roma svolge un ruolo di grande competizione, ad esempio contro Londra, per cui abbiamo tutte le risorse per imboccarci le maniche e ritornare ad un'egemonia sia qui, culturale, tecnologica, anche perché, vede, è come se lei prende un'azienda che è allo stato zero, non ha nessun tipo di infrastruttura tecnologica, ma lei lo sa, le do un dato, lei lo sa quanto pagano i romani di contravenzioni per entrare nel centro storico di Roma? Quanto? Oltre 100 milioni di euro. Di contravenzioni, ma sai perché? Ma li pagano? Perché, cioè per... ma sai perché? Perché in un paese normale, non dico, non so, a Londra, a Milano, tu quando vuoi entrare nel centro o chiami con un'applicazione, quindi ti accredino sulla tua carta di credito, oppure se no c'hai il telepass che te lo fa. Qui noi non ce l'abbiamo. Quindi la gente dice, quante volte devo andare in centro? Una volta al mese. Preferisco andarci a prendere la multa che piuttosto pagare che... oltre 1000 euro per fare malattia da TL. Capisce che siamo ancora veramente all'età della pietra? No, ma è chiaro. Oscar, qui, vabbè, che dobbiamo dire? In bocca al lupo, come diciamo a tutti, ovviamente. In bocca al lupo. Io le dico solo che molti ascoltatori ci hanno mandato sms preoccupati, perché dicono, se arriva Marchini, gli esuberi all'ATAC e all'AMA che fine fanno? Cioè, lei da una parte ha apprezzato che dice, vabbè, non è dei vecchi partiti, dall'altra hanno paura. Questo perché? È perché hanno paura che lei li cacci, quelli in esubero dell'ATAC. Allora, allora, qui è un altro tema importantissimo, no? Allora, 60.000 dipendenti, per me sono 60.000 famiglie, quindi prima di mettere per strada un signore che lavora a 1.200 euro al mese, uno si deve pensare a 50... No, non va proprio fatto. Le faccio un esempio specifico. L'ATAC hanno assunto pizzicagnoli e fioristi, va bene? Perfetto, ormai è fatta. Allora, io ti dico, ti devo convertire, le faccio un esempio specifico in 32 secondi. La metropolitana del Colosseo, se un disabile vuole scendere o vuole salire, siccome ci sono le scale e non c'è l'ascensore, ha bisogno di essere assistito. Ecco, manca sempre l'assistenza. Due, ottimo, se io ho un'evasione ai tornelli dell'80%, alcuni di questi dipendenti a turno devono andare a fare la vigilanza di stazione. Il problema non è cacciare la gente, c'è già troppo A Milano c'è il controllo anche in uscita, a Milano. Esatto. Il controllo in uscita lo mette. Comunque, vediamo come va nelle prossime settimane e auguri naturalmente ad Alfio, Marchini, grazie di essere stato con noi. Sì, allora, caro Oscar, grazie Alfio Marchini. Senti qui. Lo so dove volevi andare a parare. Vabbè, ce ne sono, dai, certo. Senti un po'. Basta! Questo è bellissimo! Adriana Di Rocchi, te lo ricordo. È una specie di libera interpretazione. Va bene. Ci sono anche gli ascoltatori. No, dai, c'è spazio per Luca da Torino, sì. Perché manca un minuto. Luca, pronto? Prego. Luca. Mica. Pronto, salve, è la prima volta che telefono, scusate l'emozione. Volevo semplicemente dire una cosa. Sto notando nello Stato italiano e anche nella voce del signore che è intervenuto prima, che c'è questa continua ricerca di delegare a terzi le attività della politica, cioè contattiamo i cittadini affinché partecipano al Consiglio di Sicurezza, ma insomma mi sembrano, come si dice, un eccesso di delega. Noi deleghiamo i politici affinché facciano le leggi che funzionano, però a un certo punto non sono in grado loro di farle e quindi su di noi. Infatti, come vede, c'è una lista civica per quello. Marchini nasce una lista civica, non è un vecchio simbolo di partito. Lei ha ragione, però i partiti ogni volta tracollano, non ce la fanno. E insomma, comunque, vedremo se questa storia Salvini-Marchini che fanno rima sarà... Certo, il reato di accattonaggio. Vuole il reato di accattonaggio. Quello fa molto discutere. Molto leghista. Io avrei la soluzione. Mandiamoli tutti in Vaticano. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, dai, Oscar, ci vediamo lunedì a Milano, ovviamente. Io pure oggi pomeriggio, domani mattina. Comunque, buon weekend a tutti. Grazie.